Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, buon inizio settimana. La pioggia ci sta ancora tempestando, si è abbattuta anche sulla mia condizione di salute, però insomma mi pare che, a me a giudicare da quello che sento dalle cuffie, la qualità è decente della mia voce, nonostante sembri la gola una grattugia. Cosa c'è al centro della nostra trasmissione questa mattina? Parliamo di acconto ICI. Mentre molti contribuenti sono alle prese con il tentativo di districarsi nei meandri della nuova tassazione sugli affitti e la scelta del regime fiscale più conveniente fra cedolare secca o tradizionale regime IRPEF, in questi giorni per un altro bel gruppo di contribuenti, proprietari immobiliari, si sta invece facendo i conti con l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, il cui primo acconto va versato entro il 16 giugno. A differenza dell'IRPEF, il cui acconto è slittato al 6 luglio, non c'è stata alcuna proroga per l'imposta comunale sugli immobili. Rimane confermata l'esenzione per la prima casa, che era stata stabilita e fissata, lo ricorderete, nel 2008, e dunque acconto entro metà giugno, saldo a dicembre. Oggi a Salva Danaio la guida alla conto ICI, dunque, mentre vi ricordo che è dedicata agli ultimi chiarimenti sulla cedolare secca, la guida in edicola oggi con il Sole 24 Ore, in omaggio con il Quotidiano, un inserto speciale che fa il punto, come sempre mettendovi a disposizione degli esperti che potete contattare collegandovi al sito del Sole 24 Ore. Questo inserto appunto fa il punto sul nuovo regime di tassazione sugli affitti dopo gli ultimi chiarimenti soprattutto dell'Agenzia delle Entrate, che sono arrivati a metà della scorsa settimana, sono stati diffusi proprio con una circolare il primo giugno. Per parlare invece del nostro tema dell'acconto ICI, oggi abbiamo interpellato un esperto fiscale del Sole 24 Ore, l'avvocato Sergio Trovato. Buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno. Eccoci qua. 800 24 00 24, il numero verde come sempre che vi dà l'opportunità di intervenire con le vostre domande in diretta nella nostra trasmissione. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La guida in edicola oggi con il Sole 24 Ore è gratuita, come vi dicevo, è sulla cedolare secca, però c'è anche la guida a conto ICI. Questa costa 6,90 euro più il prezzo del Quotidiano, era per la verità in edicola fino a fine maggio, ma forse la trovate ancora dal vostro edicolante e dovete chiederla perché è una pubblicazione un po' più corposa, quindi non ha lo stesso formato del Quotidiano come succede oggi con la guida sulla cedolare appunto degli affitti, però c'è anche questa sull'acconto ICI 2011. Allora, prima di partire con l'approfondimento di oggi, approfondiamo un po' la giornata di borsa, che non è per niente buona. Settimana parte in salita, non solo per me e le mie condizioni di salute, ma anche per i listini del vecchio continente, che sono tutti in discesa. Particolarmente negativa la seduta di Piazza Affari, che perde lo 0,84%, questo succede sul FTSE MIB, trascinata a ribasso Milano dai titoli bancari e dai titoli del risparmio gestito. UbiBanca perde 4 punti secchi, il gruppo parte oggi con il suo aumento di capitale da 1 miliardo di euro, ma il mercato ha già bocciato le condizioni fissate per questo aumento, condizioni rese note la settimana scorsa, un aumento di capitale che viene fatto a forte sconto, forse un po' troppo secondo le interpretazioni del mercato. Il titolo già da settimana scorsa sta subendo dei ribassi continui, anche oggi meno 4%. Azimut meno 3,40%, Mediolanum meno 2,41%, abbiamo un ribasso del 2,33% anche per STM. Intesa San Paolo meno 2,24%, Fondiaria meno 1,95%, Banco Popolare meno 1,33%, Buzzi Unice meno 1,66%. Abbiamo fatto qua la lista dei peggiori titoli in assoluto. Chi invece oggi gode di una buona giornata sono il titolo Campari più 1,41%, Pirelli più 1,33%, Prismian più 1,24%, Enel Green Power in rialzo dello 0,8%, benino anche Saipem più 0,36%. Mercato risente sia ancora delle turbolenze sulla questione greca, anche se c'è stato il via libera ai nuovi finanziamenti per appunto questa piccola nazione europea in forte difficoltà finanziaria, ma diciamo che a preoccupare ancora di più è la condizione economica statunitense, con il tasso di disoccupazione di maggio che è salito al 9,1%, ritornando sui massimi da dicembre del 2010. Euro su dollaro a 1,4624. Buona giornata per chi comunque fa shopping in dollari, perché l'euro sta un po' proprio inghiottendo il dollaro da qualche seduta a questa parte, si è riportato appunto su valori piuttosto elevati. Direi che per la borsa possiamo a questo punto chiuderla qua, andiamo al tema di oggi e andiamo appunto all'acconto ICI. Scade il 16 giugno il termine per il pagamento della prima rata dell'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, pari al 50% dell'imposta dovuta per il 2011 e che si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente. L'imposta comunale sugli immobili da qualche anno è esclusa per le abitazioni principali, dunque sulla prima casa, ma restano soggetti ad ICI, anche se adibiti ad abitazione principale, gli immobili di categoria catastale A1, abitazioni di tipo signorili, A8, abitazioni in ville, e A9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Oltre a queste categorie, l'ICI va versata anche su tutte le altre unità immobiliari che non sono prima casa, seconde case, case concesse in locazione, oltre agli immobili non abitativi come uffici e negozi. Nel caso si possiedano più immobili in uno stesso comune, è sufficiente effettuare un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta. La seconda rata, invece, si dovrà pagare tra il 1 e il 16 dicembre e si calcola con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno in corso, sottraendo la cifra versata in acconto. È possibile pagare l'ICI anche in un'unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per il 2011. Allora, le condizioni, come avete sentito nella nostra scheda per il versamento dell'acconto ICI, non sono cambiate rispetto allo scorso anno. Quello che può essere cambiato è, avvocato trovato, la nostra condizione di proprietari. Magari lo scorso anno non lo eravamo, quest'anno lo siamo diventati, quindi bisognerà capire come metterci in regola con questo tributo. Oppure, per esempio, possiamo lo scorso anno aver venduto ad un certo punto della nostra vita la nostra vecchia abitazione, anche se era prima casa, non pagavamo appunto l'ICI. Comunque, insomma, quello che può essere cambiato è solamente, come dire, il regime del contribuente. Credo, non mi pare che dall'anno scorso ci siano dei cambiamenti relativamente all'imposta comunale sugli immobili. No, non ci sono cambiamenti. Ci sono cambiamenti sotto il profilo giurisprudenziale, cioè magari la Cassazione ha preso posizione su alcune questioni in maniera diversa rispetto al passato, ma dal punto di vista normativo non ci sono novità. Se, qualora si è cambiata la posizione del contribuente, ovviamente deve pagare l'ICI legata al possesso dell'immobile per il periodo dell'anno durante il quale ha posseduto l'immobile. Qualora il possesso sia protratto oltre 15 giorni nel corso di un mese, il mese va calcolato per intero. Ecco qua. Allora, se è vero, precisiamolo molto attentamente, perché molti già stanno dicendo, ma l'ICI non era stata abolita. Abbiamo già chiarito questo aspetto all'inizio della trasmissione, ma evidentemente ogni volta va ripuntualizzato. Se è vero che l'imposta sulla prima casa è stata abolita, è anche vero che bisogna ricordarsi di pagarla, avvocato trovato, se si possiedono seconde case, quote di proprietà o terze case, insomma, se si ha dei bei proprietari immobiliari. Bisogna essere avere, come dire, una situazione molto ben regolarizzata a proposito della gestione di questo tributo. Sì, l'esenzione ICI vale soltanto per l'abitazione principale e poi, come stavo detto nel corso del servizio, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, quindi per il resto terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati sono soggetti al pagamento dell'imposta. Ecco, a proposito dell'abolizione del tributo riguardanti i proprietari di immobili destinati ad una prima abitazione, sono incluse anche quelle che vengono definite, avvocato, le cosiddette pertinenze, il box, il garage, le cantine? Sì, le pertinenze seguono la stessa sorte dell'abitazione principale e quindi anche più di una, a meno che il comune non abbia limitato il numero delle pertinenze. Quindi tutto, box, cantine, posti auto, quindi anche per più di una pertinenza è possibile fruire della esenzione. Quindi diciamo che a prescindere dalla disciplina generale nazionale può essere anche che il comune abbia stabilito diversamente. Sì. bisogna sempre fare riferimento appunto alla regolamentazione comunale. Tra l'altro, un'altra cosa, la specifichiamo bene, adesso non mi ricordo se l'abbiamo detto nella scheda, che l'abolizione dell'ICI relativamente alla prima casa, all'immobile destinato alla prima abitazione, non riguarda chi abita, avvocato, in ville, castelli, abitazioni signorili. Sì, infatti sono escluse le categorie catastali A1, immobili di lusso, A8 e A9, ville e castelli. Allora, io ricordo peraltro il numero verde per intervenire all'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666 o in alternativa, se volete, se avete un caso un po' più articolato, ci potete anche scrivere all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Avvocato Trovato, come si versa l'acconto, con quale modalità? Bisogna andare in Poste e fare un bollettino, oppure ci sono anche... Con l'F24, questo a prescindere dalle scelte fatte al Comune, è un diritto che ha il contribuente di versare con questo modello, cioè con l'F24, poi si può versare tramite conto corrente postale, quindi è possibile addirittura versare tramite anche internet. Per queste ulteriori scelte bisogna valutare qual è stata appunto la posizione del Comune e le scelte fatte dal Comune al riguardo. L'F24 è consentito per tutti i contribuenti. Avvocato, allora, ammettendo che io lo scorso anno fossi un proprietario di seconda casa e questa condizione è rimasta inalterata quest'anno, pertanto su quell'immobile devo versare l'ICI, come faccio ad essere sicura che l'importo che devo versare è lo stesso? Come faccio a fare una verifica? Allora, bisogna intanto in acconto si può versare il 50% di ciò che è stato versato per il 2010. Il contribuente può anche versare in unica soluzione purché verifichi le scelte del Comune e quindi verificare se il Comune abbia o meno modificato le aliquote riguardanti gli immobili, quindi verificare se vi sia o meno una modifica dell'importo dovuto. In genere che cosa fanno i comuni, avvocato? Inviano una comunicazione a casa su quello che è il versamento di pertinenza annuale, oppure siamo noi contribuenti che dobbiamo informarci direttamente sull'importo dell'ICI che dobbiamo versare? Allora, tanti comuni lo fanno, inviano anche ai contribuenti delle informative sulle scelte fatte dall'ente, però non c'è alcun obbligo di farlo, quindi non è detto che l'ente lo debba fare. È possibile invece verificare, ad esempio tramite anche il sito dell'IFEL, l'Istituto di Finanza degli Enti Locali, le aliquote, le detrazioni stabilite dall'ente per l'anno in corso. C'è da dire che quest'anno c'è uno spostamento del termine ulteriore, perché il termine ordinario per fare queste scelte è il 31 dicembre, quest'anno invece c'è una proroga fino al 30 giugno, quindi teoricamente il Comune potrebbe fissare anche nei prossimi giorni le aliquote ICI o le detrazioni, visto che è legato questa scelta all'approvazione del bilancio di previsione di quest'anno, il termine appunto è slittato al 30 giugno. Quindi per questo, non lo so avvocato, forse sia il caso di suggerire un comportamento di questo tipo, comunque forse è meglio non avventurarsi nel pagamento di tutto l'importo, di quello che si ritiene sia l'importo definitivo e completo per tutto l'anno, magari fare comunque l'acconto rispetto a quanto si è pagato lo scorso anno e poi conguagliare a dicembre? Sì, versare il 50%, a meno che i comuni non abbiano già approvato, i comuni su cui appunto esistono gli immobili dei contribuenti non abbiano già approvato, e molti lo hanno fatto, le delibere quindi aliquote. Detrazione di imposta e così via. Benissimo, 800240024, siete in tantissimi ad averci chiamato, e allora io comincerò subito nella seconda parte della trasmissione a sentire i vostri casi individuali e cominceremo quindi a tormentare l'avvocato Trovato con dei casi specifici, cominciando con un ascoltatore che ci chiama dalla Puglia, da Bari, Corrado. A tra pochissimo. Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, ritorniamo a parlare di casa. Oggi abbiamo dobbiamo ricordare ai contribuenti che ci ascoltano che va versato entro il 16 giugno l'acconto ICI, l'imposta comunale sugli immobili, anche se in questi giorni molti contribuenti proprietari di case che magari hanno dato la loro casa in affitto a qualcuno sono alle prese con la nuova tassazione sugli affitti, la scelta del regime fiscale più conveniente fra cedolare secca o tradizionale regime IRPEF. Oggi, per chi volesse ancora chiarirsi le idee su questo tema, c'è in edicola la guida pratica delle Sole 24 Ore. Noi non abbiamo rifatto questo argomento perché davvero vi abbiamo tormentato con la cedolare secca negli ultimi tempi. Se sarà necessario, magari ci ritorneremo. In ogni caso, oggi c'è la guida. Noi oggi a Salvadanaio facciamo invece l'acconto ICI con l'avvocato Sergio Trovato, esperto fiscale delle Sole 24 Ore, che ci sta aiutando a capire come metterci in regola con questo tributo, ricordando che per la prima casa, appunto, l'imposta è stata tolta nel 2008, ma naturalmente bisogna ricordarsi di pagarla se si possiedono seconde case o quote di proprietà, terze case e quant'altro. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Prima di sentire gli ascoltatori in attesa al numero verde, volevo farle, avvocato Trovato, questa domanda che ci rivolge Nicola al numero per gli SMS. Ci spiega che sta ristrutturando la sua casa adesso, quindi in attesa che questa sia pronta, è in affitto in un'altra abitazione. Il suo comune gli fa pagare l'ICI sulla casa che sta ristrutturando. Si chiede se questo è un comportamento corretto da parte dell'amministrazione comunale. Il fatto di non abitarci è una condizione che è rilevante ai fini del versamento di questo tributo? No, il fatto di non abitarci di per sé no. Si deve trattare di un intervento di manutenzione non ordinaria ma straordinaria, cioè l'immobile deve essere inagibile o inabitabile per avere diritto a una riduzione del 50%, quindi comunque non c'è una causa di esclusione o di esonero dal pagamento del tributo. Il contribuente deve pagare almeno il 50%, sempre che ricorrano le condizioni di legge, e cioè che l'immobile sia dichiarato inagibile o inabitabile. Uh-huh. Quindi il contribuente avrebbe dovuto comunicare al comune il tipo di intervento a fare sull'immobile e autocertificare lo stato di inagibilità e pagare comunque il 50%. Benissimo, quindi Nicola, speriamo di averla aiutata. Allora, cominciamo adesso invece con gli ascoltatori che ci hanno chiamato all'800 24 00 24. Già pronto da un po' Corrado da Bari. Corrado, buongiorno. Sì, buongiorno all'avvocato Trovato, buongiorno. Ci dica. Sì, volevo porre una domanda all'avvocato Trovato, gentilmente. Niente, praticamente quest'anno a febbraio è deceduta mia madre. Noi come figli abbiamo ereditato, siamo quattro, abbiamo ereditato la quarta parte, siamo già possessori, ma io sono già sposato e mia moglie è proprietaria di casa come prima casa, quindi lei già non paga ICI. Ecco, avendo avuto questa proprietà, io come prima casa e non avendo comunione di bene, vorremmo capire se pagarlo meno l'ICI. Va bene, Corrado, grazie. Avvocato Trovato, grazie, partiamo subito in salita, con un caso bello complicato, però magari può essere molto più diffuso di quanto non si pensi. No, direi che il contribuente deve pagare l'ICI perché utilizza un altro immobile come abitazione principale, da quello che ho capito. Sì. Quindi, di cui però è proprietaria la moglie. Sì, è proprietà della moglie, e comunque al di là della proprietà quello che rileva è appunto la destinazione dell'immobile di fatto come abitazione principale. Peraltro, appunto, c'è stato di recente un chiarimento della Cassazione che due coniugi, a meno che non siano legalmente separati, si presume che convivano sotto lo stesso tetto e quindi non possono avere due volte diritto all'esenzione ICI sull'abitazione principale. Quindi è un po' questo a ribadire, avvocato, proprio quello che dicevamo all'inizio. Oggi, sì. Sul Sole 24 Ore viene appunto chiarito a questo aspetto. Ah, bene, quindi mi sta dicendo che non me ne sono accorta. Bene, l'ho letto proprio bene, no, stamattina. Bene, andiamo. Non bene. Avuto tempo, Qua sveliamo tutti gli altarini. No, questo a suffragare un po' quello che ci diceva all'inizio, che complessivamente l'impianto della norma non è cambiato, ma la giurisprudenza invece interviene spesso e frequentemente appunto a disciplinare degli aspetti che magari nel complesso la norma non chiarisce nel dettaglio, no? Sì. Allora, andiamo a Federico da Treviso. Federico, sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Guardi, un caso, io sono abbastanza profano perché delego tutto a mia moglie, l'amministrazione della casa. Bravo, Federico. Sì, anche perché lei ha lavorato da un commercialista, quindi. Ascolti, una cosa, io praticamente siamo in separazione di beni, la prima casa è proprietà tutta di mia moglie e io qualche tempo fa ho comprato un garage nel condominio che hanno costruito di fronte. Mm-hmm. E volevo sapere se per quanto riguarda l'ICI, cioè io non ho nessun'altra casa, ho solo questo garage, c'è qualche tipo di possibilità di non pagarla o avere una riduzione, perché mia moglie sostiene che devo pagare lici completa sul garage. Bene. È il mio unico immobile. Andiamo allora con la consulenza dell'avvocato Trovato. Oggi facciamo litigare a pranzo Federico con sua moglie. Avvocato, ha ragione la moglie di Federico? Bisogna vedere anche la distanza del garage dall'abitazione principale. Anche cioè, quello bisogna vedere. Sì, alcuni comuni hanno previsto anche che si considera pertinenza l'abitazione principale, il garage, la cantina, che siano distanti, quindi hanno fissato anche la misura della distanza per far sì che effettivamente si possa considerare al servizio dell'abitazione principale la pertinenza in questione. Ah, ho capito. Direi che però, insomma, se la distanza è minima, ancorché il Comune non abbia stabilito quale sia appunto la distanza massima, purché di fatto questa pertinenza sia utilizzabile al servizio dell'abitazione principale, direi insomma che spetta anche in questi casi l'esenzione per l'immobile in questione. Ho capito, questa cosa anche, non che io sappia tutto generalmente, anzi so sempre ben poco rispetto agli argomenti che trattiamo, questa cosa della distanza tra un'abitazione ed un'eventuale pertinenza, non l'avevo colta, comunque è importante anche questo aspetto. Allora, un altro ascoltatore, al 349-238-6666, avvocato Trovato, ci chiede se l'ICI è compensabile col credito IRPEF. Sì, attraverso l'F24 sì. Ah, è possibile utilizzare. Quindi qualora io avessi con questo sistema di versamento è possibile compensare l'ICI con il credito erariale. Quindi magari spieghiamo che cosa vuol dire, che qualora io per qualsiasi motivo lo scorso anno avessi fatto un calcolo errato, avessi versato troppo al comune in termini di ICI, quest'anno posso fare appunto posso alleggerire l'IRPEF e compensarlo in questa maniera. È possibile recuperarlo, cioè, sono due le modalità: o si fa istanza di rimborso al comune, oppure si può recuperare il credito ICI attraverso una compensazione in sede di versamento con l'F24. È molto diffuso il caso in cui ci si sbaglia di il versamento dell'importo, avvocato? Sì, ci sono dei casi in cui si versa in eccesso rispetto al dovuto ed è possibile rimediare all'errore attraverso anche una richiesta diretta all'ente. Certo. Si può chiedere anche all'ente, quindi al comune stesso, di voler utilizzare il credito in compensazione nei versamenti successivi. Se avvenisse invece al contrario, avvocato Trovato, se sempre per un errore di calcolo in totale buona fede io verso meno di quanto dovrei al mio comune, non tanto in acconto ma anche a dicembre, me ne accorgo che comunque diciamo tutta la rata totale l'ho fatta inferiore a quella che avrei dovuto versare, qua che cosa succede? È possibile in questi casi utilizzare il ravvedimento operoso e quindi regolarizzare pagando il minimo di sanzione previsto, quindi una sanzione molto più modesta rispetto alla sanzione prevista dalla legge, che è il 30% nelle ipotesi di omesso, tardivo o parziale versamento dell'ICI. È possibile regolarizzare, prima avviene la regolarizzazione e meno si paga come sanzione. Quindi qualora si regolarizzi entro 30 giorni si paga una sanzione minima del 3% che passa al 3,75% qualora la regolarizzazione avvenga entro un anno. Benissimo, allora avete sentito, il ravvedimento non fissa delle sanzioni molto alte, però insomma perché dobbiamo pagarle, quindi mettiamoci in regola. Ce la facciamo a sentire la domanda di Simone, Roby, e poi andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio dopo la tragica situazione di ieri sulle strade italiane, la quale sono ovviamente incappata anche io, figuriamoci se me la facevo mancare. Sentiamo oggi poi che cosa succede, intanto prima però la domanda di Simone da Roma. Simone, buongiorno. Simone, buongiorno. Ci sente? Eccoci qua. Sì, buongiorno, buongiorno all'avvocato. Io volevo porre questo quesito. Nel 2010 ho comprato un appartamento, io non ero proprietario di prima casa prima di questo appartamento, ma vivevo nell'appartamento dei suoceri, per il quale veniva pagato un ICI come seconda casa dal mio suocero. Ho però fatto una richiesta di una comunicazione di inizio attività per dei lavori sotto la legge per la detrazione del 36%, sì, eccetera. Esattamente. E dopodiché ho trasferito la residenza in questa nuova abitazione da agosto dello scorso anno, quindi dopo 6 mesi dal rogito notarile. Mi è stato detto anche da un'amica che ha avuto un caso simile, che per questi 6 mesi e in realtà sarei passibile di addebito appunto ICI. Mm. E quindi deve... non avendo avuto mai, non essendo mai risultato intestatario di una prima abitazione. Simone, aspetti lì, anche il suo è il caso. Io direi di sentire subito l'avvocato Trovato, se ce la facciamo. Poi magari, se abbiamo bisogno di argomentare ulteriormente, andiamo alla seconda parte. Avvocato, che ne pensi di questo caso? Ho capito, il trasferimento della residenza è avvenuto ad agosto. Sì. Ora, la legge prevede che il punto di partenza per avere diritto all'esenzione è in primo luogo la residenza anagrafica, salvo prova contraria, cioè la destinazione deve essere effettiva ad abitazione principale. La residenza è un punto di partenza, ma non basta da sola, perché il comune potrebbe contestare l'esenzione qualora, ancorché il contribuente vi abbia fissato la residenza, non utilizzi l'immobile effettivamente, di fatto, come abitazione principale. Quindi più che prima casa o seconda casa, quello che rileva è la destinazione dell'immobile ad abitazione principale, cioè a dimora del contribuente e dei suoi familiari. Soltanto in questo caso, quindi il dato della residenza è importante come dato formale, però, come ha affermato anche la Cassazione, il Comune potrebbe contestare l'agevolazione qualora non vi sia un utilizzo effettivo dell'immobile a questo fine. Come conviene comportarsi a Simone? Andare a fare una chiacchierata in qualche ufficio del Comune di Roma per definire la sua situazione e vedere come Roma disciplina il caso? Potrebbero esserci dei casi... No, in questo caso è disciplinato dalla legge, quindi serve tanto quello che ne pensa il Comune a riguardo. Sicuramente dal mese di agosto, dal momento in cui ha fissato la residenza, ha diritto all'agevolazione, purché abbia utilizzato nell'arco di tempo che va dal 2010, da agosto 2010 ad oggi, abbia utilizzato l'immobile come abitazione principale. Benissimo, suggerimenti per chi in viaggio. Salva Danaio. Eccoci all'ultimissima parte di Salva Danaio, ci rimangono 6 minuti molto scarsi per i vostri ultimi interrogativi, le vostre ultime domande. L'avvocato Sergio Trovato con noi questa mattina per orientarci nel mondo dell'acconto ICI. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Una domanda che ci arriva al 349 238 6666, invece un sms. Gabriele ci chiede se, avendo comprato un secondo garage e arrogito, questo è stato definito, avvocato, come pertinenziale della prima casa, si vede che c'eravamo come distanze, come spiegavamo prima, si deve pagare l'ICI sul secondo garage? Allora, l'ICI sul secondo garage è legata all'agevolazione, alla scelta fatta dal comune. Sicuramente spetta l'agevolazione per un immobile pertinenziale. Per quanto riguarda invece il secondo immobile, garage, cantina, utilizzati eventualmente come pertinenze dell'abitazione principale, in questi casi bisogna appunto verificare quale sia stata la scelta fatta dal comune, perché può darsi che il comune abbia limitato l'agevolazione soltanto a una pertinenza. Allora in questo caso per il secondo immobile non è concessa l'agevolazione. Stavo pensando che l'ascoltatore ha specificato che il secondo garage è stato definito pertinenziale della prima casa sul rogito. Questo rileva, che è questo bel termine, insomma, che piace molto ai legali, ai fini del pagamento del tributo ICI, o è comunque ciò che stabilisce il comune, quello che è più importante? È ciò che stabilisce il comune. Perché il comune, cioè, il fatto che sia scritto nel rogito, ha una pertinenza l'agevolazione, quindi comunque questo immobile può essere a servizio dell'abitazione principale, quindi può essere qualificato civilisticamente come pertinenza, ma non è detto che abbia perciò stesso diritto all'esenzione. Allora andiamo adesso, poi c'è una domanda, se ce la faccio, spero di sì, che ci ha scritto Simonetta, l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. prima però la precedenza, due ascoltatori in attesa al telefono. Antonio da Milano, buongiorno. Antonio, abbassi la radio, perché sennò qua sentiamo... L'ho spenta. Eccoci qua, benissimo, tanto ci sente lo stesso, no? Ok, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono proprietario di un appartamento a Milano che ho dato in affitto per tutto il 2010. Allo scadere del 31 dicembre gli inquilini hanno dato la disdetta e ho chiuso l'affitto con la regolare domanda all'ufficio delle entrate. E a questo punto l'immobile è vuoto, io però abito da un'altra parte, e devo pagare l'ICI? Allora, Antonio, grazie. Avvocato Trovato, il fatto che questa proprietà fosse stata data in affitto in precedenza dava, come dire, il diritto al proprietario legittimo di non versare l'ICI sopra? No, non mi pare. Ma più che altro da quello che chiede l'ascoltatore è che per il 2011 quale sia il trattamento per il 2011, cioè se deve pagare l'acconto ICI o meno. Senz'altro la risposta è senz'altro appunto che deve pagare l'imposta, perché come da lui stesso dichiarato non utilizza comunque l'immobile come abitazione principale, e quindi già questo è stato chiarito anche in precedenza, non c'è dubbio che debba pagare l'ICI. Il fatto che ci siano stati degli inquilini dentro non rileva, e riutilizzo questo termine che mi piace tantissimo, ai fini anche del calcolo dell'imposta, del tributo, avvocato. Ma questo non cambia, è stato nulla. Tutto affittato nel corso del 2010, è cessato a fine 2010, e in ogni caso per l'anno 2010 il contribuente avrebbe potuto pagare un l'ICI in misura ridotta, sempre che avesse appunto concesso in affitto l'immobile a canone concordato, e sempre che il comune avesse previsto un'aliquota agevolata in questi casi. Per il 2011 chiaramente non è neanche più in affitto, l'immobile è a disposizione, l'ICI è una patrimoniale, quindi deve pagare l'ICI sull'immobile in quanto non lo utilizza come abitazione principale. Allora, Simonetta ci scrive: mia figlia di 11 anni nel 2009, alla morte del padre, ha ereditato un appartamento che al tempo era occupato da inquilini morosi. Dopo una lunga azione di sfratto che si è conclusa nel 2011, adesso questo appartamento è vuoto. Negli anni scorsi ho sempre pagato l'ICI, ci racconta Simonetta. Mi chiedo se dobbiamo pagare anche quest'anno, visto che la bambina ha residenza in un altro comune. Avvocato. Senz'altro deve continuare a pagare, perché l'ICI è una patrimoniale, quindi al di fuori delle ipotesi di utilizzo dell'immobile come abitazione principale e al di fuori delle categorie previste dalla legge 1 e 8 e 9, bisogna pagare sempre l'ICI sull'immobile, al di là dell'uso o del mancato uso dell'immobile stesso. Vincenzo da Firenze, la sua domanda in 10 secondi, grazie, anche se sono un po' terrorizzata di essere così dirompente con lei, se non ho capito male, un militare? Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ci dica rapidissimo. Sono appartenente alle forze dell'ordine, ho comprato una casa 6 anni fa, ho avuto residenza lì fino a circa 2 mesi fa, adesso per ovvie ragioni, perché facevo ritardo al lavoro, ho dovuto prendere residenza in caserma, ma la casa la utilizzo ancora. Sì. Devo pagare l'ICI? Avvocato Trovato, che fa questo? Ecco, questa è una cosa importante, perché ora quello che conta è il dato di fatto. La legge prevede la residenza anagrafica salvo prova contraria. Nel caso prospettato è proprio il contribuente che può fornire la prova contraria, ancorché nell'immobile utilizzato come abitazione principale non vi abbia la residenza, può dimostrare al comune di utilizzare quell'immobile come abitazione principale e quindi avere diritto all'esenzione. Benissimo, tutti sull'attenti con Vincenzo. Avvocato Trovato, grazie per essere stato con noi, speriamo di aver chiarito tutti i dubbi ed aver detto tutto quello che andava detto questa mattina su questo argomento. Buona giornata intanto. Bene, grazie, grazie anche a lei, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Roby Scaltritti oggi in assistenza tecnica. Noi ritorniamo sempre qui domani puntuali alle 12:10. Buona giornata.